Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Quante volte abbiamo sentito dire che è necessario fare sistema, soprattutto per le aziende, una specie di mantra contemporaneo. Il punto è che le piccole e medie imprese italiane singolarmente non hanno una massa critica sufficiente, non spuntano buoni prezzi quando fanno acquisti, fanno fatica a esportare e si trovano in balia, insomma, dei minimi 20 del mercato. Da anni si sperimentano con più o meno convincimento varie forme di associazione di imprese e stasera vogliamo raccontarvene una che si avrà il successo sperato, insomma, potrebbe diventare un modello da imitare. Naturalmente siamo nel campo dell'energia e ciò è tanto più interessante in quanto molte PMI italiane sviluppano componenti proprio in questo settore. Io, insomma, parlerei di una specie di federazione aziendale. Non so se al mio ospite la definizione piace, ma glielo chiediamo subito. In linea con noi c'è Alberto Ribolla, imprenditore e presidente di Energy Cluster, il sistema produttivo lombardo per l'energia. Buonasera Ribolla. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto in un minuto le chiedo di spiegarci che cos'è l'Energy Cluster, perché poi in questo contesto che nasce il progetto di cui poi vogliamo parlare. Le cluster, la terminologia inglese, definisce un'evoluzione del distretto, quindi una nuova maniera di aggregazione, tra l'altro formalizzata davanti a un notaio, per mettere assieme le imprese con logiche non più legate alla economicità, o meglio, non solo all'economicità, di offrire un prodotto integrato, ma anche all'incremento del valore aggiunto. Nasce nel 2009, nasce Legnano, mette insieme un centinaio di imprese di tutta la regione Lombardia e ha come obiettivi sostanzialmente la conoscenza tra imprese, quindi il famoso matching, la capacità di queste imprese di dialogare per accrescere il loro valore aggiunto, la capacità di rappresentarsi con attività di lobby positiva e di accedere a bandi di ricerca sia locali, quindi regionali, che nazionali, che europei. Queste sono le finalità principali del cluster. Ebbene, allora veniamo al motivo, diciamo, della nostra chiacchierata di questa sera, perché a un certo punto nasce un progetto, siamo nel campo dei componenti per gli impianti a biomassa, nasce un progetto che coinvolge 5 aziende. Ecco, ci spieghi un po' che cosa succede. Qui il cluster è sostanzialmente un bacino, appunto un centinaio di aziende che dialogano tra di loro su progetti specifici. Questo è l'ultimo di una piccola serie, nasce dalla domanda, in particolare in Italia, ma non solo, di impianti a biomassa fino a un megawatt, fino a qualche megawatt in generale in giro per il mondo e fino a un megawatt perché esistono delle politiche di supporto sulla fornitura di energia usando queste piccole centrali. L'idea è quella di mettere insieme 5 aziende che a loro volta poi possono trascinare altre aziende all'interno del cluster come subfornitori, quindi 5 aziende che possiedono tecnologie integrate e che consentono di trasformare 5 aziende che hanno una componente dell'impianto tutto in fornitori in maniera aggregata dell'impianto completo, quindi assumendosi la responsabilità dell'EPC contractor. Queste 5 aziende forniscono quindi un impianto chiave in mano completo. È questo il punto, no? Cioè, invece di cercare di piazzare componenti sul mercato di coloro che realizzano impianti, vendono direttamente, l'idea è questa, offrono direttamente un impianto chiave in mano. Qual è il vantaggio di questo posizionamento? Ovviamente il vantaggio è quello di arrivare direttamente al cliente finale, cioè all'utilizzatore, quindi avere una maggiore redditività. Perché aumentano i margini, insomma, no? Aumentano i margini. E dall'altro poi questo consente alle imprese di migliorare quelli che sono le loro tecnologie, avendo poi un'alleanza di lungo periodo che ti permette di poter investire sul tuo prodotto e di migliorarne sia le prestazioni che il contenuto di costo. Ecco, perché qual è il patto di fondo che firmano queste aziende? Lei diceva davanti a un notaio. Come si fa, insomma, a garantire che tutte le aziende che fanno parte di queste 5 aziende, per esempio, remeranno nella stessa direzione, che non ci sarà qualcuno che fa semplicemente la zavorra, insomma? Ma dunque il patto intanto nasce sulla disponibilità di proprietà tecnologica. Il fatto di poter partecipare presuppone che l'azienda abbia a disposizione la conoscenza di quel particolare quantum all'interno di un prodotto finito che è l'impianto. Questa è la caratteristica principale. Secondo, poi esiste una competizione interna eventualmente su fornitori che hanno lo stesso prodotto relativamente a qualità e costi, quindi una reverse auction, mettiamola così, all'interno del cluster, dove chi viene poi prescelto ha non solo la disponibilità della tecnologia, ma anche la tecnologia a un costo più basso rispetto ad altri. La terza è questa alleanza, un'alleanza di lungo periodo. Quindi non è un'alleanza mordi e fuggi per qualche impianto, ma è un'alleanza che dura in un periodo di tempo relativamente lungo, 24-36 mesi, in maniera tale che chi fa degli investimenti, evidentemente magari tenendo bassi quelli che sono i costi, poi ovviamente un vantaggio sul numero di impianti che riesce a vendere. Proprio per capire concretamente, come viene stipulato questo patto e che tipo di penalties eventualmente, i vantaggi sono chiari, ma se uno poi non rispetta gli impegni, no? Esiste un memorandum of understanding che poi può essere notarizzato o meno, dove l'azienda si impegna per un lungo periodo di tempo, o relativamente lungo periodo di tempo, i 24-36 mesi, a concorrere per questa tipologia di impianto solo ed esclusivamente con queste imprese o a non concorrere affatto. Quindi nessuna impresa può partecipare a questo tipo di forniture se non in alleanza con le altre. Grazie Alberto Ribolla. Grazie dottore e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ci fermiamo qui, ricordo a tutti che potete ascoltare le puntate di Mr. Kilowatt in podcast dal sito della radio e scriverci a mrkilowatt@radio24.it. Buona serata.